Pochi giorni dopo, Haley si imbarcava coi suoi acquisti a bordo di un piroscafo dell'Ohio. Era al principio del suo viaggio. A mano che la nave procedeva nel corso, egli doveva raccogliere altri capi di merce che egli o i suoi agenti avevano acquistati in vari punti della riva. La Belle Rivière, uno dei più veloci e leggeri piroscafi che abbiano mai solcato le acque dell'Ohio, discendeva allegra la corrente, sotto un'atmosfera purissima. Le strisce e le stelle della bandiera americana sventolavano alla sua prua, i ponti erano pieni zeppi di una folla elegante dei due sessi. Tutto era vita, movimento e allegria, tutto era festa, tranne la merce vivente di Haley, tranne quei poveri neri, quali erano stati ammucchiati nella stiva vicino ad altri carichi di merce che parlavano tristemente e a voce sommessa fra loro. Ragazzi, disse Haley avvicinandosi a loro. Spero che siate contenti e di buon umore. Vediamo, giù quelle facce ingrugnate, coraggio, giovanotti, portatevi bene e non avrete certo a lagnarvi di me. I tapini a cui era rivolto questo discorso risposero con l'invariabile sì padrone, che da secoli è la parola d'ordine della infelice loro razza, ma non per questo ebbero un'aria meno malinconica. Ciascuno di loro aveva i suoi piccoli pregiudizi, essi non potevano, per esempio, dimenticarsi le mogli, le madri, le sorelle, i figli ai quali avevano dato testé l'ultimo abbraccio. E quantunque colui che era la causa di così dolorosa separazione comandasse loro di essere lieti, la gioia non nasceva nei loro cuori troppo facilmente. Io ho moglie, disse l'articolo registrato sotto il nome di John, di anni 30, posando la sua mano incatenata sopra le ginocchia di Tom, ed ella non sa niente di tutto ciò, povera creatura. Dove dimora? Domandò Tom. In un'osteria a poche miglia da qui. Ah, se io potessi rivederla un'altra volta, solamente in questo mondo. Povero John. Era questo un desiderio ben naturale, e le lacrime scorrevano sulle sue guance, nella medesima copia che se John fosse stato un bianco. Tom trasse un lungo sospiro e si provò, come meglio poteva, a mitigare l'afflizione di John. Nella sala, al di sopra della loro testa, stavano riuniti padri, madri, sorelle. Graziosi fanciulli andavano e venivano intorno ad essi come altrettante farfallette. Oh, come in quel crocchio benedetto dalla fortuna la vita sembrava facile e dolce. Mamma, disse un fanciulletto che ritornava dalla stiva, c'è a bordo un mercante di neri. E io ho veduto laggiù tre o quattro schiavi che gli mena con sé. Poveretti, disse la madre tra afflitta e sdegnata. Che c'è? Domandò un'altra signora. Poveri schiavi che sono a bordo con noi, rispose la madre. Che disonore per il nostro paese, esclamò una terza interlocutrice. C'è molto da discutere pro e contro, disse una leggiadra signora, la quale, seduta vicino alla porta della sala di mezzo, se ne stava cucendo mentre due suoi figli le giocavano intorno. Io sono stata nel sud e vi confesso che credo i neri molto più felici che se fossero liberi. Oh, non voglio negare che ve ne siano taluni quali, sotto alcuni irrispetti, sono felici, disse la signora alla quale la giovane madre aveva rivolto la parola. Ma il più orribile nella schiavitù è, a parer mio, l'oltraggio che si fa ai sentimenti e agli affetti della natura, la separazione, per esempio, dei membri di una stessa famiglia. Senza dubbio è una cosa cattiva, replicò la giovane, scuotendo una vesticciuola da fanciullo che ella aveva allora terminata e della quale stava attentamente esaminando il ricamo. Ma immagino che questa triste cosa non accada poi tanto spesso. Oh, accade spessissimo, invece, esclamò la prima signora. Io ho vissuto molti anni nel Kentucky e nella Virginia e ne ho veduti quanto basta per averne male al cuore. Supponete, signora, che si venga a strapparvi dal seno i vostri due figlioletti per venderli. Ma noi non possiamo dai nostri sentimenti misurare quelli di simil razza di gente, rispose la giovane signora che scompartiva della lana sulle sue ginocchia. Beh, in verità, signora, voi non li conoscete bene, se potete parlare così, replicò la sua interlocutrice con vivacità. Io nacqui e crebbi in mezzo a loro e so che si sentono tanto profondamente e più profondamente, forse, di noi. Davvero? Fece l'altra signora. Poi sbadigliò, guardò fuori dal finestrino e finalmente, a guisa di conclusione, ripeté l'osservazione con la quale aveva cominciato il discorso. Sarà come voi dite, ma io credo, ad ogni modo, che sono più felici che se fossero liberi. Senza alcun dubbio è negli intendimenti della Divina Provvidenza che la razza africana resti soggetta in una condizione umiliante, disse un grave gentleman vestito di nero, un membro del clero che era seduto presso l'uscio della sala. Maledizione sia sopra Canaan, egli sarà servo dei servi dei suoi fratelli, dice la scrittura. Dite un po', signor mio, è veramente questo il significato di tali parole? Domandò un uomo di alta statura che stava in piedi vicino a lui. Oh, sì, certo, la provvidenza ha uno scopo che noi ignoriamo, credette bene di condannare questa razza alla schiavitù e noi non dobbiamo osare di esprimere la nostra opinione su ciò. Benissimo, dunque, e noi continueremo a comprar neri, poiché è un decreto della provvidenza, non è vero, signore? Continuò l'uomo d'alta statura rivolgendosi verso Haley, il quale in piedi presso la stufa e con le mani nelle tasche stava ascoltando attentamente la conversazione. Sì, soggiunse, bisogna bene che ci sottomettiamo ai decreti della provvidenza e che i neri siano venduti, barattati e tenuti nella schiavitù. Per questo appunto essi sono fatti. Un tale modo di considerare la cosa è pur consolante, non è vero? Disse egli a Haley. Io non vi avevo mai pensato, rispose questi, né mai mi sarebbe riuscito di fare da per me un simile ragionamento. Non sono abbastanza dotto, signore. Entrai nel commercio per guadagnare la vita, calcolando che seppur vi fosse qualche cosa di male, sarei sempre in tempo a pentirmene, ed ora vi risparmiate questa fatica, non è vero? Replicò l'altro. Guardate che cosa vuol dire conoscere la Sacra Scrittura. Se voi aveste studiato la vostra Bibbia come quel bravo signore là, conoscereste tutto ciò da molti anni e vi sareste risparmiato tutto questo affanno. Voi avreste detto: Maledizione sia sopra! Non mi ricordo più il nome. E avreste avuto la coscienza tranquilla. E lo straniero, il quale non era altri che John, l'onesto negoziante di cavalli che abbiamo presentato nell'osteria del Kentucky, ai nostri lettori, si pose a sedere e a fumare, mentre un sorriso enigmatico balenava sul lungo e scarno suo volto. Un giovane, alto anch'egli e svelto nella persona, il cui sguardo esprimeva vivacità di sentire pari a intelligenza, prese allora la parola e disse: Tutto quel che non vorreste che fosse fatto a voi, non fatelo agli altri. Suppongo, soggiunse, che anche ciò stia scritto nella Bibbia, al pari di maledetto sia Canaan. Sì, disse il mercante di cavalli, ciò sembra chiarissimo ai poveri diavoli come noi. E John mandava fuori ondate di fumo che pareva un vulcano. Il giovane pareva pronto a riprendere la parola allorché il piroscafo si fermò d'improvviso e tutti accorsero per vedere dove si sbarcasse. Quei due individui sono ecclesiastici? Domandò John a uno degli uomini della ciurma mentre uscivano. L'uomo fece cenno di sì. Nel momento in cui il piroscafo si fermò, una nera vi si precipitò con impeto, attraversò la folla e slanciandosi verso il gruppo di schiavi, gettò le braccia al collo dell'infelice che vedemmo registrato sotto il nome di John, di anni 30. Ma a qual pro ridire una storia già troppo sovente narrata? Una storia di pianto e di disperazione, a qual pro mostrare il debole oppresso, torturato a profitto del forte. Questa storia si rinnova ogni dì e grida vendetta nel cospetto di colui che non è sordo, benché non abbia ancora risposto. Il giovane che aveva difeso la causa dell'umanità e di Dio stava là, con le braccia incrociate, muto testimone di quella scena. Egli si rivolse subito verso Haley, che gli si trovava vicino. Amico mio, gli disse con voce profondamente commossa, come potete, come osate fare un commercio simile? Guardate quei poveretti, mentre io mi consolo al pensiero di riabbracciare mia moglie e il mio figlioletto, la medesima campanella che annunzierà a me l'istante della riunione darà loro il segnale di una separazione eterna. Pensate che Dio vi chiederà conto delle loro lacrime. Il mercante si allontanò in silenzio. Che cosa vi dicevo io? Disse a Haley, il venditore di cavalli, toccandogli col gomito il fianco. Non tutti gli ecclesiastici si rassomigliano. Maledetto sia Canaan, non va molto a sangue quello là, pare. Haley fece udire un sordo brontolio. E c'è di peggio, proseguì John. Può darsi che ciò non piaccia gran fatto neppure a Dio. Quando voi andrete uno di questi giorni a regolare i vostri conti con lui, come tutti, presto o tardi dovremo fare, io credo. Haley si pose a passeggiare all'altro capo del battello in atto di uomo pensoso. Se faccio ancora un buon guadagno o 1 o 2 altre vendite di schiavi, credo che ne avrò abbastanza, disse egli fra sé. Ciò comincia a parermi doloroso davvero. E traendo di tasca il portafogli, si diede a esaminare i suoi conti, espediente che molti altri, al pari di Haley, hanno spesso trovato efficace per sedare le molestie della loro coscienza. Il piroscafo lasciò di nuovo la riva e ogni cosa riprese lietamente il suo aspetto consueto. Gli uomini ciarlavano, fumavano e leggevano, le donne cucivano o ricamavano, i ragazzi giocavano e il piroscafo seguì il suo rapido corso. Un giorno in cui il piroscafo si era per alcune ore fermato presso una piccola città del Kentucky, Haley vi si recò per i suoi affari. Tom, a cui le catene non impedivano di muoversi fino a una certa distanza, si era inoltrato verso il parapetto del naviglio e guardava con occhio distratto la spiaggia quando, dopo brevi istanti, vide il mercante che tornava sollecitamente menando con sé una giovane di colore che portava in braccio un bambino. Quella giovane era decentemente vestita e le teneva dietro un nero che aveva tra le mani una valigetta. La donna pareva allegra e parlava, cammin facendo, col nero che la seguiva. Ella salì a bordo, la campana suonò, la macchina gemette, il vapore fischiò e il piroscafo ricominciò la sua corsa. La giovane, arrivata di fresco, si assise tra le casse della stiva e si diede a scherzare col suo bimbo. Haley, dopo aver fatto 2 o 3 volte il giro del battello, si pose a sedere vicino a lei e le rivolse alcune parole con aria di indifferenza. Tom vide ben tosto l'annuvolarsi della fronte della giovane che rapidamente e con voce concitata rispose: «Non lo credo, non lo crederò mai! Voi vi prendete gioco di me!» «Se non volete credermi, guardate qui», disse il mercante presentandole una carta. «Ecco l'atto di vendita ed ecco la firma del vostro padrone. Io sono in grado di accertarvi che vi ho ben pagata. Mettete dunque il vostro animo in pace.» «Non posso credere che il mio padrone mi abbia ingannata a tal segno! Non è vero!» esclamò la povera giovane con crescente agitazione d'animo. «Domandatene a tutti coloro che sanno leggere l'ho scritto. Ehi, amico!» disse poi Haley a un uomo che passava. «Fatemi il piacere di leggere qui. Questa giovane non vuol credere ciò che vi sia scritto.» «Eh?» disse il viaggiatore interrogato. «Questo è un atto di vendita firmato da John Fosdick, col quale gli vi cede ogni suo diritto sulla nera Lucy e suo figlio. È abbastanza chiaro, mi sembra.» Le esclamazioni angosciose della povera creatura attrassero la folla intorno a lei e il mercante spiegò in brevi parole il motivo di quella scena. «Ma mi aveva detto che mi mandava a Louisville per essere cuoca nell'osteria dove serve mio marito. Il padrone me lo ha detto con la sua bocca. Non posso credere che abbia mentito.» ripeteva quell'infelice. «Ma egli vi ha venduta, povera giovane.» «Non se ne può dubitare», disse un uomo di benevolo aspetto che aveva esaminato le carte. «In tal caso è inutile che io mi disperi», disse la poveretta che subito parve si rassegnasse e stringendosi il bambino tra le braccia, si pose a sedere sulla cassa, volgendo a tutti le spalle e guardando il fiume con una certa aria di noncuranza. «Sono contento perché parmi che ella si rassegni facilmente e sia ragionevole», disse il mercante. Il battello continuava la sua rotta e la povera giovane sembrava tranquilla. Pari a uno spirito misericordioso, un venticello tiepido e profumato le passò sulla fronte, dolce aura del cielo che non domanda di qual colore è la fronte che essa viene a carezzare. La poveretta guardava i raggi del sole scintillare tremolando sull'acqua con riflessi dorati, udiva voci gioiose intorno a sé, le voci dei felici del mondo, ma le pareva che un peso enorme le fosse piombato sul cuore. Il fanciulletto si sollevò sui piedini per giungere fino al volto materno e saltellava e bisbigliava come se avesse voluto distrarla. A un tratto ella lo serrò tra le braccia e stringendoselo fortemente al cuore, le cocenti sue lacrime caddero lentamente su quella piccola faccia maravigliata e sorridente. Il fanciullino Era di una bellezza e di una forza non comuni e sua madre si adoperava di continuo a frenarlo e prevenire i pericoli della sua grandissima vivacità. Ecco un bel fusto di omettino, disse uno dei passeggeri fermandosi dinanzi a lui con le mani nelle tasche. Che tempo ha? 10 mesi e mezzo, rispose la madre. Il passeggero fischiò al bimbo e gli offerse un bastoncello di zucchero che il poverino aggrappò avidamente e si cacciò in bocca. Diavoletto di un fanciullo, disse quegli, che sa bene il fatto suo. Detto ciò, volse altrove il passo fischiando. Giunto che fu all'altra estremità del piroscafo, si fermò innanzi a Haley che stava fumando in piedi sopra un mucchio di casse. Il passeggero accese un sigaro dicendo a Haley: «Voi avete là una giovane, buona mercanzia, davvero!» «Infatti, ella è discretamente bella», rispose Haley lanciando una boccata di fumo. «È per il sud?» Haley fece cenno di sì con la testa, continuando a fumare. «In una piantagione, forse?» domandò il primo interlocutore. «Ho una commissione per una piantagione e credo che la giovane ne farà parte», rispose Haley. Mi hanno detto che è una buona cuoca e potranno servirsene come tale oppure metterla a ripulire il cotone. Ho veduto che ha le dita fatte apposta, perciò a ogni modo ella vale bene il suo prezzo. E Hayley si rimise in bocca il suo sigaro. Del bimbo però non sapranno che farsene in una piantagione. Alla prima occasione lo venderò, rispose Hayley accendendo un secondo sigaro. Mi immagino che lo venderete a buon mercato, riprese a dire il passeggero, montando sul mucchio delle casse e adagiandovisi sopra con tutto il suo comodo. Ma non saprei, rispose Haley. Il piccino è bello, vispo, ben fatto, paffutello, carne dura come il marmo. È vero, ma aggiungete anche i fastidi e la spesa per allevarlo. Boh, fece Haley. Non v'è altro animale che si allevi più facilmente. Egli non dà maggior noia di un cagnolino. Di qui a un mese quel bamboccio correrà dappertutto. Ho un buon podere dove allevare i ragazzi e veramente vorrei comprarne qualcuno, riprese l'altro. Per l'appunto la mia cuoca ha perduto nella settimana scorsa un suo figlioletto che annegò nella vasca mentre ella stendeva il bucato. Penso che potrei darle da allevare questo. Haley e il passeggero continuarono a fumare per qualche tempo in silenzio. Nessuno dei due pareva disposto a toccare la questione principale del loro colloquio. Finalmente il passeggero riprese. Poiché dovete disfarvi di quel nerettino, credo che non chiederete più di $10. Haley scosse la testa dicendo: No, non mi conviene, e continuò a fumare. Quanto ne domandate? Capite bene, rispose Haley, che io medesimo potrei allevare il piccino, oppure farlo allevare, siccome egli è di una salute e di una bellezza non ordinaria, di quei 6 mesi ne caverai sicuramente $100, e tra 1 o 2 anni 200, perciò ne chiedo ora 50, neppure un soldo di meno. È un prezzo un po' esagerato, replicò il passeggero. Né più né meno, ve lo ripeto, soggiunse Haley decisamente. E io ve ne darò 30, rispose l'altro, neppure un soldo di più. Sentite, disse Haley, aggiustiamo la differenza così, datemene 45, non posso fare nessun altro ribasso. Bene, accetto, disse l'altro dopo un momento di riflessione. Qua la mano, replicò Haley, dove vi recate? A Louisville. A Louisville? Ottimamente, vi giungeremo sul far della sera. Il bambino sarà addormentato e tutto andrà bene. Portatelo via cheto cheto, senza strilli né strepito. A me piace che le cose succedano tranquillamente. Detesto i tumulti e i disordini di ogni genere. Dopo aver detto queste parole solenni e intascato certi biglietti di banca che uscivano dalla tasca del compratore, Haley si rimise a fumare. La sera era placida e chiara. La Belle Rivière ancorò nel porto di Louisville. La giovane nera si era alzata da sedere e teneva tra le braccia il suo bimbo che dormiva profondamente. Quando ella udì il nome del luogo dello sbarco, posò in fretta il bambino in una specie di culla formata da un piccolo spazio vuoto tra le balle di mercanzia, non senza che ella vi avesse prima, con amore di madre, steso sopra il proprio mantello. Poi si slanciò verso lo scalo sperando di vedervi suo marito fra i camerieri di locanda dei quali era pieno il porto. In questa speranza si inoltrò verso il parapetto di fronte e protendendo la faccia guardò attentamente fra le teste che si muovevano sulla riva e intanto la folla dei passeggeri si accalcò tra lei e il suo figlioletto. Questo è il momento, disse Haley prendendo il bimbo addormentato e deponendolo tra le braccia del passeggero. Badate adesso di non destarlo e di non farlo gridare, altrimenti tra lui e la madre sarebbe proprio un rumore del diavolo. Il passeggero prese con gran precauzione quel bambino e si perde tra la folla che si avviava verso lo scalo. Quando il battello, fischiando, cigolando, abbuffando, ebbe lasciato la spiaggia e cominciato lentamente a riprendere il cammino, la donna ritornò al suo posto. Il mercante stava seduto l'appresso, il bambino non c'era più. Come? Come? Dov'è? Esclamò ella fuori di sé medesima. Lucy, disse il mercante, il vostro piccino è partito, è meglio che ve lo dica subito. Io sapevo che non potevate condurlo con voi nel sud e ho trovato un'eccellente occasione di venderlo a un'ottima famiglia nella quale sarà allevato assai meglio che non avreste potuto fare voi stessa. Il mercante era pervenuto a quel grado di perfezione cristiana che era comandata da alcuni predicatori e uomini di stato del nord, in virtù della quale l'uomo riesce a spogliarsi del tutto di ogni pregiudizio o debolezza del proprio cuore. Lo sguardo di cupa disperazione che la donna lanciò a Hayley avrebbe per certo cagionato qualche turbamento nell'animo di un uomo meno sperimentato in quella sorta d'affari. Ma il mercante era avvezzo da gran tempo e 100 altre volte aveva già veduto quel medesimo sguardo. Le angosce mortali che si leggevano nelle sembianze dell'infelice madre, le mani contratte, il respiro ansante di lei, erano per Hayley semplicemente uno degli incidenti inevitabili del suo traffico e andava fra sé, ruminando il modo di evitare che costei producesse qualche agitazione a bordo. Poiché Hayley, al pari di molti altri difensori delle nostre istituzioni, nutriva un odio assoluto e profondo contro ogni specie di agitazione. Ma la misera stette muta. Il cuore di lei era troppo addentro e troppo mortalmente ferito perché potesse alzare un solo grido o versare una lacrima. Ella stava immobile, come colpita da vertigine. Le mani le pendevano inerti sul fianco, i suoi occhi guardavano fissamente senza vedere nulla. Lo schiamazzo e il ronzio della folla, i muggiti della macchina le giungevano confusi e dolorosi all'orecchio e quel povero, muto e spezzato cuore non aveva né grido né lacrima nella sua estrema miseria. Lucy era calma. Il mercante, che in fin dei conti era quasi umano e compassionevole quanto alcuni dei nostri uomini politici, pensò gli incombesse l'obbligo di far la parte di consolatore e darle quei conforti che le circostanze richiedevano. So bene, Lucy, disse egli, che la cosa è un po' dura in sulle prime, ma una giovane che ha buon senso come voi non si perde d'animo, per questo voi capite bene che ciò era necessario, inevitabile, e che non ci potreste rimediare. Ah, tacete, tacete! Esclamò la donna con un suono di voce come di persona che affoghi. Ma egli continuò. Voi siete una giovane assennata, io voglio farvi del bene e trovarvi un buon impiego laggiù. Presto avrete un altro marito, bella e giovane come siete. Ah, padrone, abbiate la bontà di non parlarmi in questo momento. Replicò Lucy con tale accento di dolore cupo e straziante che Hayley, comprendendo come non vi fosse nulla da fare per il momento, si alzò per allontanarsi e la donna voltò le spalle e nascose il capo nel mantello. Il mercante passeggiò un po' in su e in giù e di quando in quando si fermava per osservare la giovane. In fede mia, mormorava fra sé, costei prende la cosa piuttosto a cuore, ma senza strepito almeno. Lasciamo che si sfoghi, a poco si darà pace. Tom, che aveva osservato tutte le fasi di quel fatto, ne aveva altresì preveduto gli effetti. A parer suo, quella era un'azione veramente crudele e orribile, poiché, povero nero, ignorante com'era, non aveva imparato a osservare le cose nella loro totalità, a prendere i fatti in grande. Se egli fosse stato istruito da certi ministri del cristianesimo, avrebbe capito non essere quello che un episodio giornaliero di un'istituzione che, a dire del dottor Parker di Filadelfia, non trae seco altri mali se non quelli che sono inseparabili da ogni rapporto sociale e domestico. Ma Tom essendo un povero ignorante che si limitava a leggere il Nuovo Testamento, non sapeva adattarsi a siffatte considerazioni. La semplice e schietta sua anima sanguinava alla vista di quel che gli stimava un'ingiustizia verso quella povera cosa sofferente, stesa come una canna spezzata ai suoi piedi. Una cosa che sente, che vive, che sanguina e che è pur'anco immortale e che le leggi d'America uguagliano alle casse e alle balle di mercanzia su cui ella giaceva. Tom le si avvicinò e provò a dirle qualche cosa, ma ella non cessava dal gemere. Egli le parlò dolcemente, con le lacrime agli occhi, di un cuore che si delizia nel pensare al cielo, di un Dio misericordioso e della patria eterna, ma gli orecchi di lei erano sordi per l'ambascia e il cuore suo, esulcerato, non aveva più sentimento di nulla. Sopravvenne la notte, placida, immobile, raggiante, e innumerevoli stelle parevano miriadi di occhi angelici rivolti alla terra, scintillanti e leggiadri, ma silenziosi. Da quel cielo lontano non scendeva parola compassionevole, non atto consolatore. Tutte le voci di affari e di allegrezza tacquero poco a poco, tutti i passeggeri dormivano entro il piroscafo e si poteva udire distintamente il lieve mormorio delle acque solcate dalla prora. Tom si sdraiò sopra una balla di merci, e prima che lo prendesse il sonno gli giungeva di quando in quando all'orecchio il singhiozzare della povera creatura accasciata accanto a lui. Che sarà di me? Dio, buon Dio, soccorretemi! E così, tratto tratto, si udiva questo gemito che moriva tosto nel silenzio universale. Nel cuore della notte Tom si svegliò d'improvviso. Un oggetto nero, indistinto, passò rapidamente presso a lui, correndo verso il parapetto del naviglio. Un istante dopo, egli udì il tonfo di un corpo cadente nell'acqua. Nessun altro vide né udì cosa alcuna. Egli alzò la testa. Il luogo prima occupato dalla donna era vuoto. Si alzò, camminò a tentoni intorno, ma invano. Quel povero desolato cuore aveva cessato di battere e le onde si frangevano e scorrevano calme come prima. Alla mattina, di buon'ora, il mercante si svegliò tutto gaio e di buon umore e andò a gettare uno sguardo sopra la sua merce vivente. «Dove si è nascosta quella giovane?» disse egli a Tom. Si fermò volgendo gli occhi intorno con perplessità. Tom, che aveva imparato a essere prudente, non si credé in obbligo di manifestargli i suoi sospetti e rispose che nulla sapeva dirne. «Ella non può certamente essere sbarcata di notte, perché io mi alzavo e facevo buona guardia tutte le volte che il piroscafo si fermava. Io non lascio mai questa cura ad altri». Queste parole erano rivolte a Tom, come se il mercante volesse interessarlo alla sua causa, ma Tom non rispose. Haley esplorò tutto il piroscafo da poppa a prora, cercò fra le casse, le balle di merci, tutto intorno alla macchina, presso il camino, e sempre invano. «Su via, Tom», disse egli allora dopo la sua infruttuosa ricerca. «Tu ne sai qualche cosa, non dir di no. Io ne sono persuasissimo. Ieri sera alle 10 la giovane era sdraiata qui, la vidi io. A mezzanotte pure, poi fra il tocco e le 2 vi era ancora e alle 4 non c'era più. Tu devi dunque saperne qualche cosa, non negarlo». «Orbene, padrone», disse Tom. «Innanzigiorno ho sentito muovere accanto a me. Io, mezzo desto, a quel fruscio ho sentito un gran tonfo giù nell'acqua. Allora mi sono del tutto svegliato e la giovane non vi era più. Ecco tutto ciò che posso dire». Il mercante non si commosse né si stupì, perché, come già dicemmo, egli era avvezzo a molte, molte cose a cui altri non possono abituarsi. Nemmeno la spaventosa presenza della morte lo colpiva, del solenne terrore che infonde generalmente negli uomini. Egli l'aveva veduta spesse volte, l'aveva incontrata nel corso dei suoi affari e aveva con essa stretto conoscenza. Non era dunque per lui se non un fiero competitore che attraversava ingiustamente le sue operazioni commerciali. Quella giovane era stata per lui cattiva merce, che il diavolo aveva mandata alla malora, e diceva che se le cose andassero tutte a quel modo, non buscherebbe un centesimo in quel piccolo viaggio. Insomma, si considerava come un uomo deluso, ma non v'era rimedio al male. La schiava era fuggita in un paese che mai restituisce i fuggiaschi nemmeno a domanda dell'intera nostra gloriosa unione. Il mercante non trovò di meglio che cavar fuori con aria contrita il suo libercolo dei conti e iscrivervi corpo e anima della sciagurata al capitolo delle perdite. Oh, che abominevole creatura è il mercante di neri! Che durezza di cuore! È cosa proprio orrenda! Nessuno ha stima di tali mercanti, dovunque non riscuotono che disprezzo, né vengono ammessi nelle società oneste. Ma dite, o signore, chi forma il mercante? Quale dei due è degno di maggior biasimo? L'uomo intelligente, istruito, colto, che approva un sistema di cui il mercante di schiavi è l'inevitabile effetto? O il povero mercante stesso? Voi mantenete l'opinione pubblica che rende necessario il suo traffico, che lo invilisce e lo deprava a tal segno da non sentir più la vergogna di quel commercio obbrobrioso? In che dunque valete meglio di lui? Voi siete educato, egli ignorante, voi appartenete a un'alta classe, egli a una classe inferiore, i vostri modi sono squisiti, triviali i suoi, voi possedete belle doti di ingegno, egli ne è privo. Nel giorno del giudizio finale, però, le stesse considerazioni possono renderlo meno colpevole di voi. Nel chiudere la descrizione di questi piccoli inconvenienti di un commercio legale, dobbiamo pregare i nostri lettori e lettrici di non supporre che i legislatori americani siano interamente spogli di umanità, come si potrebbe a torto arguire, vedendo i grandi sforzi che si fanno con modi governativi per proteggere e perpetuare questa sorta di traffico. Chi non sa con quale facondia i nostri grandi uomini declamano a gara contro la tratta dei neri all'estero? Sorse fra noi un vero esercito di Clarkson e di Wilberforce. E nulla era più ammirevole che l'udirli perorare la causa dell'umanità. Far mercato dei neri dell'Africa, cara lettrice, è abominevole, ma far mercato dei neri del Kentucky è cosa approvata dalle leggi.